Crollo perché l'anima non mi consola, l'era delle mutazioni è vicina e continuamente c'è chi si cambia in modo acceso. Solamente, solamente una volta, cosa vuoi che importa? In fondo non si sa che la pretesa è questa qua, lo saprà solo chi per sbaglio sbaglierà. Mamma mia che confusione, ho paura, spengo la televisione. Meno male che non ho pagato il canone, ma è tutto inutile, tanto lo pagherò lo stesso. Non mi resta che assecondare l'era delle mutazioni. Cerco di qua e di là la mia stessa condizione, e un bambino non capirà quel che sarà la verità. Cambio schema, cambio personalità, guardo spesso oltre l'inutilità. Nascosta sole, luna, sesso, amore e volontà, terra, mare, cielo, poi l'immensità. Seguimi, segui l'era delle mutazioni che sa rinnovare la vita. Quella voce che rompe, che taglia il silenzio profondo, che provoca l'inferno solito, senza una pura follia sicura. Seguila tu, chiara, con dignità. Improvvisamente sento l'anima che ora mi consola, stranamente mi viene voglia di ascoltare, di pensare, sono tornato. Accendo la televisione, non ho paura dei suoi suoni. Ora pagherò, sono sicuro pagherò questo canone che presto arriverà. Cambio schema, cambio personalità, guardo spesso oltre l'inutilità. Nascosta sole, luna, sesso, amore e volontà, terra, mare, cielo, poi l'immensità. Seguimi, segui l'era delle mutazioni che sa rinnovare la vita. Quella voce che rompe, che taglia il silenzio profondo, che provoca l'inverno solido, senza una pura follia sicura. Seguila tu, chiara, con dignità. Segui l'era delle mutazioni che sa rinnovare la vita. Seguila, quella voce che rompe, che taglia il silenzio profondo, che provoca follia sicura. Seguila tu, chiara, con dignità. L'era è vicina, chiara, l'era è vicina, l'era è vicina, chiara, chiara. L'era è vicina, chiara, l'era è vicina, l'era è vicina, chiara, chiara. Chiara, l'era è vicina, l'era è vicina, chiara, ora, chiara.